Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Alcuna patata. Eh? Alcuna patata. Una cappa, il circolo dai. Della vita. Eh? Il circolo della vita. Cioè? Circle of life. La cantava Elton John, quella dell'Africa. Alcuna patata. Ma come alcuna patata? Com'è? San potato. No, ma San potato. Alcuna patata è una roba africana. Si ah, una roba africana. Quindi, alcuna vabbè, patata. Saluti dall'Africa, da Cappa e Drago. Qui. Ci guardano un po' storti perché no. Vorrebbero dirci: si dice Hakuna Matata. Lo so, ma volevo fare. Non so, capito? Niente. Tu non sei. Ma Tito, dai. Vabbè, Tito. Alcuna patata farebbe comodo ogni tanto. Non dire queste parole qua, patate, perché sono parole di discriminazione sessuale, di genere. Ma no, ma io parlavo del non del importa, tubero. Perché il tubero viene spesso usato per indicare quello che tu sai comunque, bene. Comunque, bentornati a Chiedo Asilo. Bentornati. E io volevo dire che questo fatto di dividere anche qui all'asilo i bambini dalle bambine, maschietti e femminucce, rose, azzurro, eccetera. Patate, dividere, fagioline. Esatto, è una cosa bruttissima che dovrebbe essere evitata. Perché da bambini, per dire, noi due non abbiamo mai giocato con le bambole. Né le nostre sorelle hanno mai giocato con le macchinine. Vabbè, e allora? Tutto ciò non è politicamente corretto. Ma no, cosa c'entra? All'asilo Egalia di Stoccolma i bambini non sanno di essere bambini. E le bambine non sanno di essere bambine. Perché alle Gallia non si fa mai riferimento al sesso delle persone, nemmeno alle maestre, hai capito? E quindi i bagni sono in comune. Certo, ma cosa c'entra quello? Soprattutto le bambine non devono per forza essere simpatiche e carine, e i bambini non devono per forza essere virili e poco sensibili, perché a Egalia i bambini e le bambine hanno la fantastica opportunità di essere chi vogliono essere. Sì, ho capito, però scusa, la divisione tra i sessi è un dato di fatto, non è? Cioè, ma non come è che sei lì... arretrato, capa, dai! È la natura che è fatta di maschi e femmine, ma Drago, sì, non ma è che puoi metterci dire? Sopra l'etichetta di politicamente scorretto. Alla natura, no, però tu non capisci niente di queste cose. In Svezia invece sono avanti. In Svezia parlano così. Ecco. Cioè per dire iafano. Vabbè, loro parlano così, però intanto stanno conducendo questo esperimento estremo di egualitarismo di genere. E l'obiettivo è che i bambini seguano spontaneamente le loro inclinazioni senza cadere nello stereotipo dei maschietti con le pistole giocattolo e delle bambine con le treccine alle bambole, capito? Allora, in nome della parità dei sessi, lì i mattoncini del Lego, per dire, si trovano a fianco dei pentolini di plastica per giocare a cucinare, mentre il rosa e l'azzurro sono proprio vietati. L'obiettivo è quello del continuo scambio di ruoli, un po' uomo, un po' donna, così. La scuola ha aperto lo scorso anno ed è già sommersa di richieste. Ma perché quindi... in Svezia sono tutti fricchettoni, ecco, capito? Come i genitori del bambino Alberto. Fricchettoni entusiasti di ogni novità strampalata, che sia cambiamo il colore, cambiamo l'energia. Se tutti fossero come te saremmo ancora al Medioevo. Eolico. Scusa. Maschi e femmine, Drago, devono rispettarsi nella loro diversità. Non si può far finta che non esistano differenze. Ma lascia perdere che c'è una coppia di Toronto che ma non ha detto a nessuno, Toronto, stai zitto, di che sesso è il loro figlio Storm. Hanno questo figlio, questo bambino appena Storm, quindi non si sa se è maschio o femmina. Storm, tempesta. Tempesta. Quindi femminile. Quindi non femmine. È né maschile né femminile, in inglese non ha nessun neutro. È neutro. Adesso questo bambino è piccolo o piccola. Ma è neutro. Quando sarà grande, uguale. Ma come? Ma ce l'ha? Faranno o in modo... ha il pisello o ha la patata. Ho capito, però non loro nel faranno senso in del modo... tubero. Faranno perché? In modo di, non so, tenergli i capelli né lunghi né corti, vestirlo in maniera ambigua, così meno nessuno si accorgerà se questo è un bambino o una bambina. Sarà poi lui o lei, nel futuro, a decidere se preferisce essere un maschio o una femmina. No. E questa è stata nominata dal New York Times la coppia più politicamente corretta del mondo, capito? Ma più stronza no? Senti cosa ti auguro. Che ti cadesse un fulmine da un cielo di tempesta. E se oggi il cielo è limpido, almeno qualche rondine te la sganciasse in testa. Cappa. È l'ora. Ma che ora? L'ora di perdere ogni legame con il qui e con l'adesso. Cappa. È l'ora di entrare per pochi secondi in un mondo parallelo in cui... No, Drago, l'eroina non ti fa bene. Cioè non è che... Va? È finita la moda dell'eroina. A meraviglia. Sta tornando. Guarda come sei. Ma un mondo abitato da esserini pelosi con un corpicino caldo e il cervello grande quanto un'albicocca. È l'ora di entrare nel mondo di Pushigè. Aspetta, finisco il Campari e arrivo. Si entra in punta di piedi, il mondo più bello che c'è. Che meraviglia! Anche se vedi non credi al mondo di Pushigè. La cosa che mi incuriosisce veramente, metti che uno che non ha mai sentito chiedo asilo e che però sente Radio 24 per l'informazione, la borsa in diretta, la strada, improvvisamente sente, entra in un mondo fatato, sicuramente ne trarrà benefici, ma certo. Manager stressati, chiudetevi nel vostro ufficio, nella vostra automobile e lasciatevi conquistare dal mondo di Pushigè. Che finisce l'effetto di Pushigè? Non so, però un po' dovrà finire perché sennò ci. Ma io qui veramente. Si va in punta di piedi nel mondo più bello che c'è. Anche se vedi, non credi al mondo di Pushigè. E ora bambini, e tutti a casa. Funziona così. Santoro dice vado alla 7 e il titolo Telecom si impegna. Sì. Poi Santoro dice non vado più alla 7 e il titolo Telecom si affonda. Dovresti fare borse in diretta. Pure così, Ma non ci sono più le borse di una volta. Dai, ma perché cosa vuol dire? Che basta Santoro per far alzare o abbassare un titolo? Prima ci volevano le guerre, le invasioni. Ma oltretutto questo non fa altro che aumentare l'autostima di Santoro, che è già eccessiva. Vabbè, di quella, per sé, quella è giustificata, quindi... l'autostima. Vabbè, insomma, dai, fai gli ascolti, acchiappa consensi, inserzionisti. Sì. Su quello non ci sono dubbi. Sì, però senza Rai e senza la 7 lui cosa fa? Santoro non sa cosa fare. Beh, è da solo, non può mica andare in onda. E lui vuole andare in onda. Vabbè, ma fa come Oprah. Oprah. Oprah Winfrey. Oprah. Oprah Winfrey. Vabbè, quella lì. Comunque si è fatta un canale da solo. Si è fatta un canale. Un suo canale, fa così anche Santoro. Sì, ma in Italia conta solo la TV generalista. E quindi lui vuole andare in onda su una rete generalista, vista già di default da milioni di persone. Tipo? Tipo la Rai o la 7. O Mediaset. No, Mediaset, no, no, Drago. E quindi Mediaset. O la Rai o la 7. Sì, ma ha già litigato con tutte e due. Vabbè, ma sai che poi si fa presto a far la pace. Ma come si fa presto? All'asilo si fa presto. A certi livelli, lì al settimo piano della Rai, non è che fa uguale, pace, uguale, ma no, all'asilo, uguale. Uguale all'asilo. Però quello che mi preoccupa è che se continua così, Santoro potrà influenzare titoli come vuole, no? Alla borsa. Dice, vado a DJTV e i titoli del gruppo Espresso, zoom, si impennano. E lui il giorno prima però si è comprato un sacco di azioni. Ma i DJTV, poi lui per qualche giorno dice che è felice di andare a DJTV, incontra Linus, parla di politica con Linus per un po'. Senza Savino di fianco che ride a qualunque roba di Calinus. Può anche darsi, capisce com'è l'andazzo, va a vendere i titoli e il giorno dopo annuncia, non vado più a DJTV. Il titolo crolla, ma lui è già lì che annuncia che va a Telenova e così via, capito? Il motivo qual è? Cioè, che motivo usa? Il conflitto di interessi come per la 7? Per rompere con DJTV? No, mancanza di interesse, non conflitto di interesse. Ma di chi? Reciproca tra lui e Linus. Cioè Linus ha sbadigliato durante la riunione, dice. Vabbè, ma quindi... Linus sbadiglia sempre, mi hanno detto. Però lui lo sa, però dice, allora continui a sbadigliare, che io me ne vado, hai capito? E aveva già venduto i titoli. Ovvio. Ma queste cose tu come le sai? Ma non le so, me le sto inventando per scherzo, no? E spero che le querele, se uno sta scherzando, non siano valide. Certo, perché la rete ci dà la copertura legale, no? Come... Non ne ho la più pallida. Ma come? Va bene, avete indovinato, questa è la song number 2 dei Blur, mi riferisco al concorso della scorsa settimana, avete indovinato in tanti, non avete vinto niente perché tutte le nostre promesse di premio sono sempre fasulle, sono solo delle balle che inventiamo per fare in modo che voi scriviate. Quindi continuate a farlo, chiedo asilo, tradio24.it. Ma perché poi non chiudono? Eh?